Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai. Tu sei il gatto ed io la volpe. Siamo in società. Via, noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata. Ma buongiorno. Buona domenica. Buongiorno in questa domenica fantastica su Radio 24. Radio 24, l'altra domenica con adesso Rosita Celentano e Angelo Vaira per Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva del cane. E oggi parleremo di un sacco di cose, tra cui anche di pet therapy. Parleremo tra poco del nostro consueto ormai, le nostre lezioni per avere ragione sia in umana che con i cani. Come avere ragione? Difatti, scommetti che ti convinco, i metodi per farsi ascoltare è ascoltare noi per primi sempre. Questa è una cosa che tutti dimenticano. Allora, stiamo dando questi 10 punti, ve li riassumo sempre. Il primo è ascoltare, secondo sincronizzarsi con l'altro ovviamente, terzo identificare le radici, quarto lasciare argomentare è importantissimo, quinto discutere di persona, sesto stimolare l'autostima, settimo non avere fretta. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Quella che tu dici che non dovrei avere io. Allora, non bisogna avere fretta, perché la goccia scava la pietra con pazienza, come dicono i saggi orientali, no? Bruce Lee. Ecco, appunto, come dice il nostro amato Bruce Lee. In piccole dosi si arriva a modificare anche le posizioni più rigide, questo è assolutamente vero. Tutti hanno bisogno di tempo per abituarsi a un'idea nuova. È verissima questa cosa per me. Ho bisogno assolutamente di tempo anche per abituarmi alle cose più belle. Se me le dici improvvisamente rimango stordita. Scioccata. Esatto. Napoleone poi diceva una cosa che io inciderò da qualche parte, perché la trovo una frase azzeccatissima. Diceva sempre: ho fretta, quindi vado lentamente. Ah, fantastico. Fantastico, fantastico. Quindi andare piano porta ovviamente più rapidamente a risultati, perché si evita che l'interlocutore riga delle barriere difensive rigide e insormontabili. E dice che già insinuare il dubbio è un risultato di cui andare soddisfatti quando si vuole convincere l'altro, ovviamente. Ma questo rientra anche nella famosa obliquità, no? Il pensiero obliquo. Ricordo un libro bellissimo che ho letto su questo, purtroppo non mi ricordo l'autore, mi riservo di raccontarlo la prossima volta, ma parla proprio di queste cose qua. Cioè, a volte per ottenere una cosa in modo diretto, in realtà la allunghiamo tutti i tempi. È vero, no? Verissimo. Cioè, è così, per ottenere la città costruita subito e perfetta, trascuriamo, così come è successo in Francia nel 1975, hanno abbattuto questi casermoni costruiti sulla carta così soltanto 25 anni dopo averli costruiti, e invece Notre Dame, che lì magari da 200 anni è stata costruita in un tempo molto lungo, è ancora lì, così come i centri storici delle città, cioè hanno una bellezza. Sì, ma guarda, mi viene in mente anche una cosa di mio padre, che adora il verde, quando ha fatto i sentieri per passeggiare lì in campagna, lui invece io gli dicevo: ma scusa, perché non fai dritto per andare da qua là e fai tutte le curve? Lui ha detto: non hai capito un cazzo, Rosita. Assolutamente, non me l'ha detto proprio così, ma il senso poteva essere anche quello. No, in realtà mi ha detto: perché Rosita, dobbiamo seguire le curve della natura, non snaturarle, e soprattutto in queste curve, in queste pause, tu ti puoi godere tutto quello che è intorno. Perché andare di corsa, arrivare da qua là? Quindi, quando andando da qua là puoi vedere, percepire suoni, rumori, esatto, profumi, cose, ha ragione. E quindi in questo caso Napoleone diceva: ho fretta, quindi vado lentamente. Perché le persone hanno bisogno di prendere familiarità con le cose. E con i cani? E con i cani pure, caspita. Perché ovviamente uno degli errori più grossolani e più comuni anche che i proprietari vanno è che vogliono tutto subito. Sì, infatti. E a volte che cosa fanno per ottenere tutto subito? Ecco che lì nasce per esempio il forzare il cane. Tipo, devo mettere seduto, siccome lo voglio immediatamente, allora schiaccio il sedere e tiro su con il collare. Quante volte le ho viste queste scene? Mamma mia. Però i cani ovviamente, quando tu fai questa cosa qua, tendono a ribellarsi, a rifiutare quel tipo di insegnamento, a rifiutare giustamente. Giustamente, perché ovviamente non si trovano bene, mentre chi invece lavora con il rinforzo positivo, lì per lì in quel momento ci mettono tipo tre minuti, 2 minuti e mezzo, poi dipende anche dalla bravura di chi. Certo. Ma finita quella sessione il cane adora sedersi e quindi hanno ottenuto più velocemente quello che quell'altro forzando il cane sperava di ottenere più rapidamente. Ma questo vale anche con i figli. Io ho visto una volta una mamma che obbligava una bambina di 4 anni a imparare ad andare in bicicletta senza le rotelle, la picchiava, urlava, tant'è vero che sono intervenuta, ma a me mi si stringeva il cuore, cioè più forzi le persone a fare le cose col terrore, con la paura, e meno ottieni e soprattutto ottieni risultati devastanti e rovini l'altra persona. Bravissima. Sai, c'è un concetto in psicologia che si chiama zona di sviluppo prossimale, l'ha elaborato un certo Vygotsky, e lui diceva, noi abbiamo delle conoscenze, no, acquisite nella nostra vita, per poter acquisire qualcosa di diverso dobbiamo essere prossimi, vicini a quello che noi sappiamo già. Ecco perché non bisogna avere fretta. Cioè, tu in una bambina in quel caso, ma nel caso di un cane può essere un cane timido che non ti si vuole avvicinare, no? Una regola che noi possiamo prendere con i cani, per esempio, che vogliamo recuperare dai canini, con i cani che sono timidi o paurosi, è rispettare i loro tempi e non avvicinarci noi a loro, ma far sì che siano loro ad avvicinarsi a noi. Ma anche perché la fretta non porta da nessuna parte, è nella pausa, è nella meditazione, di stando fermi in quello che percepisci, che vedi. Io mi metto a volte a osservare i miei cani e sto lì, non sai quante cose mi insegnano. Intanto poi anch'io inizio a star meglio, perché cioè viviamo in un'epoca di nevrosi. Sì. E di fatti. Ecco, si sta mai chi mani man, no, a Milano si dice. Sì, ho capito, ma è un conto sempre di fretta. Sì, vabbè, ma guarda, ultimamente invece Milano è la città meno nevrotica che c'è. Milano è una città che lavora, una città organizzata. Oggi mentre purtroppo ci sono città, vedi la nostra capitale che a me piange il cuore, che sta vivendo un momento drammatico. E lì c'è tutto, corri, non sai dove corri, non arrivi mai, non sai se arrivi, chi c'è, chi non c'è. La fretta veramente è una cattiva consigliera, non c'è una cosa positiva nell'andare di fretta. Una cosa alla volta. E quindi, se volete dirci la vostra, poi devo assolutamente leggere l'oggetto di una mail che ci è arrivata di un nostro ascoltatore che mi ha fatto molto molto ridere. Però lo facciamo subito dopo, perché subito dopo il traffico mi ha fatto veramente molto divertire. Vi volevo ricordare solamente la mail, chiedimi se sono felice, @radio24.it. Scriveteci, ora ascoltiamo il traffico. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Rimaniamo sempre, ricordiamo sempre che dalla prospettiva del cane, del cane. Noi raccontiamo tutte queste cose. Fra l'altro, adesso c'è una cosa, parliamo con una persona che a me piace moltissimo, perché ha avuto un'iniziativa interessantissima. Si parla spesso di bambini e purtroppo la cronaca è sempre piena di bambini che vengono aggrediti dai cani. Esatto. Ma non si parla mai di quello che fanno i bambini e i cani, e si parla troppo poco, secondo me, di quanto fa bene invece la relazione cane-bambino, quanto benissimo. Fa bene al bambino, quanto fa bene al cane. Noi siamo pieni di fotografie di cuccioli con i bambini meravigliose, ti inteneriscono. No, però sappiamo che c'è questa pet therapy, comunemente chiamata in questo modo. Conosciamo la sigla, ma non sappiamo di che cosa tratta. Ecco, che è un campo sempre in evoluzione. Certo. Abbiamo con noi in linea la dottoressa Teresa Albergo, che è pet terapista, che ha realizzato un'iniziativa notevole a Torino, e io voglio farla parlare. Pronto? Buongiorno. Ciao Teresa. Ciao Teresa, buongiorno. Senti, che cos'è l'Achilleo, la fortuna di leggere con il cane? L'Achilleo è l'unione di un bellissimo incontro tra Lucky, un cane di 5 anni allora, e di circa 2 anni e mezzo fa, che è avvenuto 3 anni fa circa, di Lucky e un bellissimo bambino di nome Leonardo. Io ho adottato 3 anni fa un cane da una famiglia che aveva una situazione difficile, un Labrador incrocio Golden. E lui Lucky? È quello che Lucky si vede sul sito? Eh sì, è lui, okay. È un bellissimo Lucky. E da qui l'adozione, insomma, è avvenuta, come dire, con gradualità, perché era un cane già grande, volevo essere sicura di essere in grado di prendermi cura di lui e che lui mi scegliesse. Ed è avvenuto questo, in tutta questa fase è subito. No, aspetta, dopo, scusami, apro e chiudo una parentesi, ma ha appena detto in due parole una roba che è importantissima, perché tutti sono fissati col cucciolo, mentre lei ha detto ho voluto un cane più grande perché avevo bisogno, cos'è che non c'erano le condizioni per un cucciolo praticamente, no? Che ti richiede più tempo. No, perché c'è un'altra cosa ancora, nel senso che io in quel periodo frequentavo un master di secondo livello per diventare pet terapista, però alle spalle una lunga esperienza di educazione ambientale, avevo già tutto un cammino lungo, insomma, non così improvvisato, giusto? Dato che in quel periodo siccome in me era nato già da tempo il desiderio di prendermi cura di un cane e di fare un percorso con un cane, però in quel momento non potevo prendermi cura di un cucciolo, ecco. Allora ho provato non al canile, perché ovviamente diventa più difficile, più complicato, eccetera. Ho provato così, spesso su internet ci sono annunci di magari di persone. Sì, certo. E quindi mi ha colpito questo annuncio, perché io adoro sia i Golden che i Labrador, comunque tutti i retriever, e ho pensato, mi ha incuriosito. E quindi ti sei indirizzata verso questa scelta del cane adulto, benissimo. Sì. E poi quindi cosa è successo? È successo che però nel frattempo mi sono accorta che dalla relazione tra Leo e Lucky, questa bellissima relazione che è nata, Lucky aveva degli atteggiamenti, ho scoperto delle capacità del mio cane, ho iniziato a capire meglio il mio cane, quindi a capire tutta la sfera motivazionale, ciò che lo spingeva a stare meglio con me nel mio gruppo familiare. Quindi praticamente quello che si dice una motivazione, lui è un cane, soprattutto un cane regolatore, quindi un cane che educa, cioè un'educatrice che ha incontrato un cane educatore. Per istinto, e no? Quello la fortuna, anche il nome del progetto, perché ho incontrato un cane, tra l'altro, che ha una motivazione forte alla cura. È un cane che ha una motivazione forte alla socializzazione, alla comunicazione, è un cane molto legato al gruppo familiare. È fantastico. Però piano piano ho scoperto che questo poteva essere una potenzialità enorme, non solo per le persone, per noi il gruppo familiare, ma anche per altri. È accaduto che a ottobre del 2013 il libraio Massimo Trombi, del direttore Rebele di Torino, mi ha invitato a festeggiare così idealmente il compleanno di Gianni Rodari. Lui crea sempre una festa ogni anno per tanti bambini. Quindi, leggendo una lettura ad alta voce, una storia di Rodari, io avevo il mio cane, condivide la mia vita il più possibile, l'avevo portato con me, e ho notato che alla fine della lettura lui non era vicino a me, ma si era messo in disparte tranquillo in un punto della stanza. A un certo punto, alla fine della storia, i bambini si sono avvicinati tranquillamente, spontaneamente, sono andati tutti vicino al cane a carezzarlo, a chiedergli tante cose. Allora da lì, dato che dovevo scegliere l'argomento della tesi, e dato che io sono ormai più di 10 anni che mi occupo di primissima infanzia, 0-3 anni, e conosco molto bene il progetto Nati per Leggere, che è il progetto di promozione lettura ad alta voce, un progetto molto importante in Italia, e progetti che insomma nato, cioè praticamente i bambini che leggono ad alta voce hanno dei benefici particolari a livello cognitivo, no? E non solo, allora in pratica cosa è successo? Che io mi sono poi, dato che ero legata e sono legata all'ASL 3, con Alda Coso, la dottoressa che è responsabile dell'area promozione progetti della salute, abbiamo collocato meglio il contesto dei benefici rispetto alla salute e rispetto a quelli che sono già i programmi sulla salute della primissima infanzia. Cosa vuol dire? Quindi cosa succede? Tu in questo progetto fai leggere il bambino ad alta voce con aspetta, non è così, perché i progetti di lettura ad alta voce, quelli americani da cui è partito tutto, sono bambini più grandi, dove i bambini con rapporto singolo a presenza del conduttore leggono ad alta voce il cane lì presente che li sostiene, e c'è tutta una procedura particolare. No, io parto dalla nascita, nel senso che valorizzo i progetti che ci sono di lettura ad alta voce, cioè l'adulto, in questo caso il terapista, l'educatore e anche i genitori, leggono ad alta voce ai bambini a partire dalla nascita, cioè ovviamente seguendo delle tecniche e tutto quanto, e io associo la presenza del cane in diverso modo. E questo che cosa porta? Qual è la differenza di farlo con un cane o di farlo senza? È fondamentale, perché ho notato, perché io poi l'ho sperimentato già per un anno, ho fatto una sperimentazione sia del setting sia di come introdurre la presenza del cane, di come interagire e quant'altro. Abbiamo notato che i bambini aumentano la capacità attentiva già un anno. Le mamme mi hanno già riferito che i bambini hanno questo aumento. Quindi praticamente la presenza del cane è un po' come se rendesse più abile un bambino di, non so, 3 anni diventa come un bambino di 4. No, prima, ha detto anche prima. Di un anno. A che età si può iniziare a fare questo col bambino? Di quanti mesi? Zero. Allora, inizio già, cioè, ho la bambina più piccola che ha partecipato al mio progetto in biblioteca 2 mesi, ecco. Perché io lavoro sul genitore, certo. Nel senso che il cane interagisce anche col genitore, il setting è formato dalla presenza, ci sediamo tutti a terra su un bel tappetone, crea uno spazio di relazione che coinvolge tutti, anche i genitori. Ovviamente quando il bambino è molto piccolo coinvolgo il genitore con la reazione del cane, perché qui c'è un discorso anche di basare una corretta relazione del rapporto tra persona e cane. Però a monte noi abbiamo ipotizzato di aggiungere un altro fattore di protezione alla crescita, cioè la relazione tra bambino e natura. Perché è importante sempre più educare i bambini e i genitori alla cura e alla diversità. Io includo anche i bambini diversamente abili all'interno, non a parte, all'interno del progetto. Quindi vuol dire che, ad esempio, utilizzo un libro sensoriale, che sono libri adatti soprattutto per bambini ipovedenti e non vedenti, ma potenzio quella presenza per tutti i bambini, quel tipo di attività, e in più aggiungo la presenza del cane e anche, come dire, dopo il momento di lettura, a livello scientifico si crea uno spazio relazionale molto importante di rielaborazione dei bambini, quindi lì introduco il gioco con il cane. Ascolta, Teresa, volevo dirti, ma questa cosa qui, ok, uno la può fare con te, con i tuoi cani, ma se uno ha già anche un cane, volesse poi prendere un cane, può imparare questo metodo e poi dopo farlo suo e quindi a casa farlo col proprio figlio e con un cane? Cioè, come funziona? Che Rosita, giustamente, come chi ci sta ascoltando, non sa quali sono le dinamiche, no, della pet therapy, che cosa? Certo. Allora, sì, si potrebbe. Allora, io lavoro, ovviamente, seguo fedelmente le linee guida nazionali, la Regione Piemonte ha già una legge nel 2010, non c'è solo la Regione Piemonte, quindi lavoro in equip multidisciplinare. Sì. Ci sono altre componenti, perché io ho una formazione psicologica e come educatore, sono una petterapista, però come dire, non sono educatore cinofilo, non sono medico veterinario e quant'altro, quindi devi affiancarti. Ci sono dei genitori che ci hanno posto, cioè il metodo è pensato anche per essere portato a casa, però non è semplicissimo e non è detto che sia il cane, perché a volte ci sono dei gatti stupendi che come dire, vicino ai bambini molto piccoli, diciamo, stanno vicino, sì, e sì, si fanno coccolare, quindi non è detto che sia il cane. Valutiamo e diamo consigli e seguiamo i genitori che ci chiedono questo. Però la cosa più importante è che stimolare il genitore a con continuità e costanza a leggere ad alta voce al proprio bambino. Io do dei consigli molto pratici, non so, per il momento della nanna o per il momento. Allora, dottoressa Teresa Albergo, siamo arrivati alla fine dei nostri 10 minuti, avremo da parlarne ancora. Sì, sicuramente. Però segnalo il sito per andare a raccogliere informazione, che è Lucky Leo, Lucky scritto Luci K, come fortuna, Luci K Y, Leo. LuckyLeo.it. E la dottoressa Albergo è a Torino. Grazie, sì. Teresa, grazie della chiacchierata, e non è detto che non magari non ci risentiamo per approfondimenti. Grazie, molto volentieri. Grazie. Grazie. Adesso un attimo di break. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. È sempre dalla prospettiva del cane che noi parliamo. Oh. Perché sono un cane un po' svociato io oggi. Allora, intanto vi ricordo la nostra mail, chiedimi se sono felice, @24.it, perché ne stiamo ricevendo diverse, anche molto interessanti. Ma diamo voce a queste email. Assolutamente, se voi poi ci volete lasciare il vostro numero di telefono, qualche volta vi possiamo richiamare, fare proprio una chiacchiera al telefono durante la trasmissione. Ma subito voglio dire una cosa buffissima, cioè adesso c'è, voglio leggere l'oggetto di questo tale felice. Non dico, proprio quella. Non dico il cognome, partiamo subito in grande. Partiamo subito alla grande con una mail in cui una persona ovviamente dice a Rosita che lei sbaglia. Aspetta, non bruciarla. Allora, intanto lo ringraziamo, perché io gli ho pure risposto dopo la prima. Intanto lo ringraziamo perché solleva una questione di cui parleremo in una prossima trasmissione in modo approfondito, che è appunto che fine fanno i nostri animali da compagnia, che, con cui dividiamo una vita, che amiamo, quando passano a miglior vita, quando muoiono. Sì. Effettivamente, chi ha la possibilità di avere un giardino li può seppellire in giardino, ma la maggior parte della gente in città che fa, va, no, dal veterinario. Ricordo che è vietato dalla legge seppellire in giardino, infatti il punto è esattamente questo. Però non è vietato dalla legge avere al Parlamento gente che ci fotte i soldi tutta la vita. Vabbè, ma che cosa c'entra No, perché vietiamo delle cose, cioè, sa. Beh, detto questo, quindi Felice nell'ultima mail ha messo un oggetto molto divertente, quindi data, nome, e l'oggetto era: Rosita, che non sai cosa significhi crescere al freddo e alla fame, ora ti becchi fiumi di soldi alla radio. Felice, cosa c'entra, per esempio? E poi ti assicuro che tu non che... sai che cosa è la fame e la sete, e adesso, no, nonostante vero, tu non lo sappia, adesso ti becchi fiumi di soldi. Esatto, no, io non io lo adesso so, vado a parlare di là e dico che loro devono darti fiumi di soldi. Va ah, bene. Ecco, appunto. No, io non lo so, e mi dispiace per chi veramente vive una realtà difficile rispetto alla mia. Io ringrazio sempre, effettivamente mi sento una privilegiata, ma cerco sempre di rendere tutto quello che posso e che ho avuto, e di condividerlo e di aiutare più che posso. Lo dimostra questa trasmissione, perché ci occupiamo di animali, cerchiamo di sensibilizzare la gente. Il punto è fare qualcosa di utile e fare le cose per merito. Allora, no, perché il tema della mail era anche: sì, tu non dovresti fare, dovresti lasciare il posto a chi non è figlio di, no? Sì, però esatto. Il punto è che le pari opportunità ci sono anche per queste persone. Infatti. Perché anche una persona figlia di potrebbe avere un talento e qualche cosa da dire, no? Quindi, per esempio, oppure esempio, una figlia di, invece di pigliare i soldini da papà, voglia di lavorare, magari lavora, di avere un minimo di dignità. Bellissima. Bellissima, ecco appunto. L'importante, ragazzi, adesso al di là i soldi tutto, fanno la felicità o non la fanno? No, non la fanno. Non la fanno, perché sennò non ti spieghi come le persone più ricche del mondo sono le più depresse. Esatto. Sono disperate. È come i cani randaggi, a volte sono felici. Esatto, rispetto a quelli che stanno con alcuni padroni allucinanti. Quindi non sono una discriminante. L'importante è che chiunque faccia i soldi, pochi o tanti che siano, in modo onesto. Sì. Non è quanti se ne fanno, è che se uno li faccia in modo onesto, e che se una tanto lo condivida con più persone può. Sono o d'accordo. Animali, questa sono è la, questo fa la differenza di una persona che merita rispetto da una non. Chiusa sta parentesi, c'è un'altra mail molto interessante. Che ci scrivono Marino e Tatiana. Veramente, veramente molto interessante. La vuoi leggere tu? Vaira. Qual era? Quella sulla caccia, questa? Sì, quella sulla caccia. Ci sono due punti molto importanti. Allora, quello che ha colpito me a proposito della caccia, che sai che i cacciatori si lamentano spesso della grande quantità di cinghiali con gli animalisti. Dicono: voi non capite, qua ci sono troppi cinghiali, quindi io devo andarli ad ammazzare. Allora, ci fa notare il signor Melino che il cinghiale maremmano autoctono era, perché praticamente non esiste più, una bestia di 40-50 kg massimo. Ora non esiste più perché è stato sterminato dalla caccia indiscriminata. Cosa hanno pensato allora questi cacciatori? Per non farsi mancare qualcosa a cui sparare, hanno importato cinghiali dall'estero. Queste bestie invece di 100-150 kg, qui non hanno trovato predatori, che tra l'altro il lupo sai che era stato già eliminato. Sì. E si sono riprodotti quindi senza limiti. Quindi tutti quelli che, dice lui Marino, tutti quelli che si incavolavano con gli ambientalisti perché ci sono troppi cinghiali, in realtà dovrebbero prendersela con le associazioni dei cacciatori, perché sono loro la causa di questo. Allora, il punto è che ognuno ha le proprie convinzioni. Io, come stiamo leggendo Focus in questi giorni, perché ci serve a capire come si interagisce con le persone, anche per far mutare idea, la prima cosa che tu devi fare è devi capire le ragioni. Io non ce l'ho con i cacciatori, io ce l'ho con la caccia, ok? Per me il cacciatore è una persona che non ha ancora capito delle cose, sì, come certo, per lui sarò io che non ho capito certo. Però, per esempio, sempre Marino e Tatiana giustamente ci segnalano inoltre il pesante risvolto economico che ha la caccia in Italia. Ogni anno paghiamo milioni di euro di multa all'Europa a causa delle deroghe permesse alla caccia. Perché queste sanzioni non se le pagano le varie associazioni dei cacciatori, per esempio? Giustamente Marino e Tatiana dicono: ci sentiamo rapinati due volte. La prima perché distruggono un patrimonio che è anche nostro, e la seconda perché usano i miei soldi per pagare le loro idiozie. Allora capisci che ci sono un sacco di cose che non funzionano. Noi siamo animalisti, ok, salveremo tutti gli animali, ma non è vero che la caccia tutela, come si dice, la riproduzione, la selezione naturale. Non è vero, perché quello, la cosa del cinghiale lo dimostra. Assolutamente. Come quando hanno messo, mettono in libertà gli orsi e poi dopo a un certo punto si apre la caccia a Danizza e l'ammazzano per tenersi due cuccioli. Cioè prima li rinseriscono. Vabbè, non è normale. Tiro al piattello uguale. Non è normale che un orso, scusa. No, dai. Comunque, detto questo, grazie, continuate a mandarci le vostre mail. Allora, abbiamo in linea invece una dottoranda in psicobiologia alla Statale di Milano, si chiama Elisa Silvia Colombo ed è una esperta, ha fatto delle ricerche a proposito dell'empatia fra esseri umani e animali e tra animali. Pronto? Elisa? Sì, pronto, buongiorno. Elisa, buongiorno. Buongiorno. Felice di averti con noi. Allora, sappiamo che tu hai fatto una ricerca in particolare che, se non mi sbaglio, tratta dell'empatia che l'essere umano ha nei confronti degli animali, giusto? Sì, esatto. Cos'è che abbiamo scoperto di interessante da questo punto di vista? Allora, è un discorso molto ampio. Diciamo che le mie ricerche si sono concentrate da questo punto di vista sull'empatia nei confronti degli animali nella medicina veterinaria e sui rapporti che l'empatia verso gli animali può avere con il riconoscimento delle emozioni, in particolar modo delle emozioni del cane. Quello allora, che è emerso dai risultati è che l'empatia da sola non basta per riconoscere le emozioni dei cani, per cui a noi possono piacere moltissimo i cani, possiamo essere molto sensibili, ma senza una formazione specifica sul loro comportamento non è detto che sappiamo interpretarlo in maniera corretta, e questo è molto importante. E per quanto riguarda invece i medici veterinari, noi abbiamo trovato, in linea con i risultati di studi condotti all'estero, che il percorso di studi in medicina veterinaria sembra in qualche modo far diminuire l'empatia verso gli animali, per cui si adotta una visione più strumentale dell'animale, sì, legata probabilmente a tutti gli studi che i veterinari fanno, sì, sulla produzione animale. Tuttavia, soprattutto nei medici veterinari che si occupano di animali da compagnia, l'empatia poi si stabilizza nel corso della professione a un livello anche abbastanza alto, e questo è dimostrato che è una capacità molto richiesta per il successo professionale, sì, oltre che essere importante per il benessere. E quindi un messaggio che noi potremmo lanciare ai neolaureandi, ho capito bene, cioè le persone che sono uscite di recente dal loro percorso di studi sono meno empatiche. È questo? Sono meno empatiche rispetto a quelle che iniziano. Probabilmente i veterinari, gli studenti che si iscrivono a veterinaria all'inizio sono molto motivati dalla sensibilità, certo, verso gli animali, e poi la perdono strada facendo. Un po', esatto, sì. Diventa, c'è ancora questa visione forse meccanicistica, no, dell'organismo vivente, sì, senza, sì, emozioni, sì, eccetera. Infatti. E quindi invece poi con il tempo diventano più empatici, e questo piace ai proprietari di cani, giustamente. Questo perché piace molto ai proprietari di cani, e permette anche al veterinario di essere più attento, ad esempio, non so, ai segnali di dolore, vedi, riuscire a scoprirli, ad accorgersene, e quindi anche a trattare il dolore in modo più efficace, per esempio. E solo a livello di dolore o anche a livello diagnostico possono avere una marcia in più questi? Sappiamo qualcosa? Su questo non si hanno dei dati veri e propri. Quello che si è visto, ad esempio, da uno studio che è stato condotto con i veterinari che si occupano di vacche da latte, è che i veterinari più empatici attribuiscono alle condizioni di queste vacche un dolore maggiore, dei livelli di dolore maggiore, e quindi sono anche più predisposti a trattare quelle condizioni patologiche che possono creare uno stato di dolore, di disagio. Bene. Senti, Elisa, tu parli, sei esperta di accumulo compulsivo di animali? Sì. Che si dice animal hoarding? Animal hoarding, che è una patologia che probabilmente è legata ad anomalie nell'empatia verso gli animali, uh-huh, e che è stata studiata soprattutto negli Stati Uniti. In Italia non ci sono studi su questo fenomeno, salvo una ricerca che ho fatto nel corso del mio dottorato, in cui ho fatto una revisione critica di tutta la letteratura sul fenomeno. Dopodiché abbiamo iniziato anche un rapporto di collaborazione con la ASL di Milano e abbiamo visto che di casi di accumulo di animali ce ne sono parecchi. Quindi per far capire, cosa vuol dire, esatto, per far capire ai nostri telespettatori, e se ho capito bene, questa gente che accumula animali su animali in posti che non potrebbero accoglierne. Sono persone sì che tendono ad avere un gran numero di animali in genere nella propria abitazione, anche se a volte queste condizioni si ritrovano anche in strutture che vengono definite come canili piuttosto che come rifugi per animali, e si ha la tendenza appunto ad avere un gran numero di animali, soprattutto cani e gatti, ma non si hanno le risorse psicofisiche e economiche per poterli accudire nella maniera più appropriata. E l'empatia in che modo entra in gioco in questo studio? In questo caso abbiamo delle anomalie dell'empatia che non sono ancora ben comprese, perché in una fase iniziale queste persone sono sinceramente convinte di voler aiutare gli animali, per cui sentono di avere la missione di salvare gli animali, qualsiasi animale loro trovano. Sì, diventa una cosa compulsiva, però non si rendono conto che li mettono in una piccola galera. Cioè, in realtà non riescono a riconoscere che questi animali lì non stanno bene. L'intenzione è dopo un po' non riconoscono più la sofferenza degli animali, per loro quegli animali stanno bene anche se magari stanno morendo di fame. Certo. Allora ringraziamo la dottoressa Elisa Silvia Colombo, ricordiamo psicologa, dottorante in psicobiologia alla Statale di Milano, esperta di empatia tra uomo e animale, e noi ti dobbiamo richiamare perché dobbiamo dedicare, questo abbiamo in mente io, Rosita, una puntata intera sull'empatia. Va benissimo, volentieri. Grazie Elisa, ciao, buona grazie domenica. Mille Elisa, grazie a voi, ciao, buona giornata. Ciao. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E rieccoci, il mondo dalla prospettiva del cane. Allora ci dobbiamo chiedere, per renderlo felice, per essere felici anche noi, di poter accettare le sorprese. Visto che siamo in autunno. Questo è l'autunno? È l'autunno che è arrivato. Bisogna fare attenzione a delle cose per i nostri cani. Che cosa può essere pericoloso per il nostro cane? Che io quando in autunno che io lì per lì ho detto ma che stranezza, e invece ci sono delle cose da a cui fare attenzione, per esempio l'antigelo. Attenzione a dove va a bere il vostro cane, perché magari in qualche pozzanghera potrebbe essere caduto dell'antigelo, che è molto tossico per i cani. Adesso si comincia ad usare, no, mi sa, l'antigelo. Per prepararsi le meno bastano 5 cucchiai per ucciderne uno di medie dimensioni di antigelo, quindi attenzione se vedete le chiazze delle macchine che perdono le cose. Io purtroppo ho avuto anche un cane, non mio ma di un mio vicino di casa, che è morto proprio per questo motivo. Ah, veramente? Sì. Ah, caspita. 2. La naftalina. Arrivando il freddo i nostri armadi si riempiono di maglioni, di altri indumenti di lana, ovviamente di conseguenza arriva anche la naftalina, che è nociva per il nostro amico a quattro zampe, quindi bisogna fare veramente attenzione e tenerla lontana dagli animali, anche perché io mi ricordo queste palline che quando tiri fuori i maglioni cascano dall'armadio, cascano per terra, quindi loro magari giocando se ne mettono in bocca, sono pericolosissime. Poi stiamo seguendo un non l'abbiamo detto prima, quindi ci tengo a sottolinearlo, sì, perché certo, qui avranno fatto un ottimo lavoro questi giornalisti. L'articolo è preso da cani.com, quindi tratta di che cosa fare attenzione, no? Esatto. In autunno. Le foglie autunnali sono bellissime, ma i forti rumori creati dai soffiatori di fogliame possono spaventare i cuccioli e spingerli a scappare via. Allora, loro dicono creati dai soffiatori di fogliame, no? che devono stare attenti. Però abbiamo un episodio della nostra cara Rosita che ci può illuminare. Il mio chihuahua e il barboncino in campagna, eravamo in aperta campagna, c'era tutto un letto di foglie secche in terra, sono arrivati correndo come delle saette appena vedono tanto terreno per correre, e si sono tuffati in mezzo alle foglie. Quando hanno sentito quel rumore sembrava che avessero preso la scossa, schizzavano, non sapevano come uscire da quell'inferno. Io ridevo come una matta, però leggendo poi questo articolo mi sono resa conto che effettivamente il rumore a loro può dar fastidio, ma non solo, perché dice addirittura che le foglie secche accumulate possono creare un'umidità diciamo che provoca quando e funghi. Appunto, usano i soffiatori per esempio, o c'è chi mette tutte le foglie accumulate in uno stesso punto, lì si accumulano batteri e funghi, quindi può essere pericoloso anche quando le bruciano, no? E non solo, perché le foglie bruciate, le foglie secche bruciate possono irritare il pelo, il naso e gli occhi dei nostri cani. Poi? C'è un periodo molto particolare, devi sapere, per i serpenti in questo periodo, perché si preparano all'ibernazione, perché sai, quando uno si chiede, ma i serpenti durante tutto l'anno, quando c'è inverno, dove vanno? Che cosa sì, fa? Infatti. Si preparano a questo periodo che è l'ibernazione, pare che questo li renda piuttosto irritabili. Ah, quindi sì? Bisogna stare attenti quando si va in giro, perché sono particolarmente punzecchianti. Eccoci, poi la spazzatura, fare attenzione che sembra che in questo periodo si produca più immondizia del solito, non so perché, e quindi quando si butta la roba, soprattutto se si hanno i cuccioli che non sanno ancora che vanno a giocare con tutto, chiudere bene con i coperchi, perché ovviamente le buste di plastica le bucano, perché magari dentro la spazzatura ci possono essere delle cose che sono nocive se loro le mangiano. Sì. Tra l'altro sai che ho seguito il caso di un cane che ha infilato nella spazzatura la testa in un barattolone di plastica per andare a prendere delle Madonna, in fondo. Oddio. Purtroppo è rimasto incastrato così e ha dovuto dopo intervenire. Ma io non l'ho voluto vedere perché mi faceva impressione. Insetti ratticidi, quando fa più freddo, piccoli insetti ratti tendono a ripararsi dove trovano caldo, quindi dentro le case. Di conseguenza, in autunno molte persone iniziano a utilizzare trappole e spruzzare veleno per topi intorno alle loro case. Quando uscite dovete stare attenti, tenete il cane al guinzaglio, monitorate, guardate in giro. Io vicino a casa mia, per esempio, hanno questi derattizzatori che sono metterebbero al sicuro i cani, però insomma varrebbe sempre la pena di informarsi, stare molto molto attenti, sì, perché sono molto pericolose, soprattutto se non li becchi immediatamente. Le pulci e le zecche, che uno pensa che ci siano solamente d'estate e siano solamente una preoccupazione estiva, invece in realtà in autunno risultano essere ancora in agguato, soprattutto poi quest'autunno che è così caldo. Attenzione quindi a proteggere ancora il vostro amico a quattro zampe, come si fa durante l'estate. Sì, e soprattutto magari dargli un'occhiata, cioè sai, d'estate c'è tutta questa prassi anche di accarezzarlo per capire continuamente, no? Per capire se qualcosa gli si è attaccato addosso. Dobbiamo continuare a farlo anche d'inverno. Allora, adesso parliamo, l'ultimo punto sono le allergie, perché anche i nostri animali, i nostri cani purtroppo possono soffrire di allergie. Quindi bisogna chiamare immediatamente il veterinario quando c'è un attacco allergico e capire se. Una volta a me un bassotto mi è arrivato con il naso gonfio da una parte e l'occhio gonfio dall'altra parte, perché si era avvicinato in un punto dove stavano ridipingendo, c'era della vernice. Lì ho scoperto che lui era, gli dava allergico, reazione allergica alla vernice. Lui deve averla solo annusata, non leccata, però era subito cortisone, però bisogna insomma andare subito Per quanto riguarda invece l'autunno, siccome ogni cambio di stagione cominciano le allergie, vale la pena di monitorare bene questa cosa. So che tu hai delle cose importanti da dire a proposito di allergie. Sì, facciamo perché, un parallelo. Esatto, pochi giorni fa le allergie sono molto pericolose se trascurate, e purtroppo negli ultimi anni sono aumentate per noi uomini, sì, come vedi anche per gli animali. Allora, a proposito di chiedimi se sono felice, gli animali possono renderci felici anche in questo. Perché una ricerca svedese dice che un cane fa bene, tiene lontana asma e allergie, ed è un articolo molto interessante della Repubblica di giovedì 5 novembre, quindi è recentissimo proprio. Si dice che oggi diventa un'affermazione piena di rigore scientifico: i bambini che crescono a contatto con un cane sviluppano l'asma con minore frequenza rispetto ai coetanei. Questo è un qualcosa che ti fa capire invece come cani e bambini debbano stare assieme, perché se stanno assieme ci sono tanti benefici, tra cui quello che ci ha appena detto. Sì, stiamo parlando di riviste, tutto ciò è stato, tutte queste analisi, il risultato dell'analisi è stato pubblicato sulla rivista, io non so se lo leggo giusto, comunque Yama Pediatrics, e c'è stato la fatto rivista scientifica. Sì. Esatto, perché dice che i bambini che crescono in campagna a contatto con gli animali fin da piccoli sviluppano più anticorpi, dice, non solo questi numeri possono essere no, scusami, sono passata troppo in là all'articolo. Qui dice che crescere in una fattoria in campagna con tanti animali intorno rafforza le difese immunitarie. Però dice anche, se oggi voi avete un bambino che c'è già 3, 4, 5 anni ed è allergico al pelo del cane o del gatto, non è che adesso se vi comprate un cane e lo mettete vicino l'allergia passa, perché non è questo, non la guarisce. Però non essere troppo non essere troppo fissati prima. No, il punto è, no, aspetta, non prendo il cane perché così è sporco, il bambino sa male. Mentre quello che risulta proprio da questi studi, il campione ripeto è sui 650.000 bambini, è che se noi rendiamo i nostri appartamenti e le nostre case troppo asettiche, esatto, e disinfettati sempre le manine, non mettere le cose per terra, il pavimento sempre lustrato, e il bambino che non si può, io quante volte ho visto bambini non camminare a piedi nudi sull'erba, cioè delle cose così. Se impedisci ai bambini di fare quello che la natura ha previsto che facciano, cioè che giochino, si lancino, no, si sporchino e fanno questa cosa qua, purtroppo ne stai decretando un sistema immunitario debole. Quel bambino sarà più facile che si ammali anche di allergie. Ipotesi igienica la chiama qui la Repubblica e dice: le malattie atopiche, cioè quelle delle allergie, sarebbero legate anche a fattori ambientali, tra cui l'esposizione a microbi e allergeni comuni. Ma il legame sarebbe inverso. Cioè, secondo questa teoria, meno sei esposto da piccolo a queste sostanze e meno ti eserciti a considerarle normale per il tuo mondo. Sì. Quindi diventi iperattivo, sviluppi anticorpi specifici e reagisci in maniera abnorme da allergico tutte le volte che li incontri. Quindi il processo è: siccome il mio sistema immunitario da bambino non le ha conosciute queste sostanze, o comunque le ha conosciute così poco, a un certo punto dice, quando le rincontra dopo, non è normale questa cosa qua, quindi sviluppa un'avversione nei confronti di questi agenti che invece sono perfettamente normali, come i pollini. Esatto. No? Tu hai un contadino che ti sta molto a cuore, che ti ha visto crescere, si chiama Vittorio. Che è in piena salute da 80 anni. Sì, ormai c'ha mai avuto un raffreddore in vita sua, eppure l'ho visto con la cacca delle galline addosso mangiare la mela che cascava, e con le pecore non c'ha niente, è senza denti, solo nel mastuno. Per il resto è perché fantastico. Perché non vuole andare dal dentista? Perché non vuole andare dal dentista, se li toglieva Vittorio con la tenaglia quando gli stavano cascando. Comunque è vivo e vegeto e sano come un pesce, oltretutto. Allora, noi dobbiamo ricordare un appuntamento importantissimo. Ah sì, beh certo. Quando è? Il 2 di dicembre. Vi aspettiamo assolutamente all'auditorium del gruppo 24 ore in via Monterosa 91. Via Monterosa 91 alle 20:30 per una puntata live. Registratevi attraverso il sito per ricevere l'invito. Assolutamente sì, che ci sono posti limitati. Ciao!